A causa forse di ciò che me ne aveva detto la duchessa di Guermantes la prima sera che avevo pranzato da lei, la sala da gioco au fumoir, con il suo pavimento istoriato, i suoi tripodi, le figure di dei e di animali da cui si era fissati, le sfingi adagiate sui braccioli delle sedie, soprattutto l'immenso tavolo di marmo o a mosaico smaltato, coperto di segni simbolici più o meno imitati dall'arte etrusca ed egizia, mi fece l'effetto di una vera e propria stanza magica. Ora, su una sedia accostata a quel tavolo scintillante e augurale, il signor di Charlus, che non toccava una sola carta e insensibile a tutto ciò che avveniva intorno a lui, non s'era nemmeno accorto del mio ingresso. Sembrava per l'appunto un mago intento, con tutta la potenza della sua volontà e del suo pensiero, a trarre un oroscopo. Non solo, come una pizza sul suo tripode, aveva gli occhi fuori dalla testa, ma, perché niente potesse distrarlo da lavori che esigevano la cessazione di ogni movimento, compresi i più semplici, aveva posato accanto a sé, come un matematico che non vuole fare nient'altro finché non ha risolto il suo problema, il sigaro che poco prima stringeva fra le labbra, non avendo più, adesso, la libertà di spirito necessaria per fumare. Scorgendo le due divinità accovacciate di cui si fregiavano i braccioli della poltrona posta di fronte a lui, si sarebbe potuto supporre che il barone stesse cercando di sciogliere l'enigma della Sfinge, se non si fosse invece trattato di quello di un giovane Edipo in carne ed ossa, seduto precisamente in quella poltrona dove si era accomodato per giocare. Ora, la figura a cui Charlus applicava e con tanta concentrazione tutte le sue qualità intellettuali, e che a rigore non apparteneva al genere di figure che si studiano abitualmente, more geometrico, era quella propostagli dalle linee del volto del giovane marchese di Surgi, e sembrava dover essere, tanto profondamente Charlus ne era assorbito, un cruciverba, un indovinello, un problema d'algebra di cui egli cercasse di penetrare l'enigma e di afferrare la chiave. Davanti a lui, le figure e i segni sibillini tracciati su quella tavola della legge sembravano la formula magica grazie alla quale il vecchio stregone avrebbe scoperto come si sarebbe orientato il destino del giovane. D'un tratto s'accorse che lo stavo guardando. Alzò la testa come se uscisse da un sogno e mi sorrise arrossendo. In quel momento, l'altro figlio di Madame de Surgi s'accostò a quello che giocava per guardargli le carte. Quando gli spiegai che erano fratelli, il viso del signor de Charlus non poté dissimulare l'ammirazione ispiratagli da una donna che aveva creato due capolavori così splendidi e così differenti. E l'entusiasmo del barone sarebbe stato ancora più grande se avesse saputo che i due figli di Madame de Surgi-le-Duc non erano solo della stessa madre, ma dello stesso padre. Se i figli di Giove sono diversi, è perché egli dapprima sposò Meti, nel cui destino era scritto che desse alla luce figli saggi, poi Temi, e in seguito Eurinome, Emnemosine, Elatona e solo da ultimo Giunone. Mentre da un solo padre, Madame de Surgi, aveva fatto nascere due figli che avevano ereditato le sue bellezze, ma bellezze diverse. Ebbi infine il piacere di vedere entrare Swann in quella stanza così grande che in un primo momento egli non s'accorse della mia presenza. Piacere intrecciato alla tristezza, una tristezza che gli altri invitati forse non provavano, ma si traduceva in essi in quella sorta di fascinazione esercitata dalle forme inattese e singolari d'una morte ormai prossima, una morte che si porta già, secondo il modo di dire popolare, sulla faccia. E fu con una stupefazione non lontana dalla scortesia, impastata di curiosità indiscreta, di crudeltà, di ripiegamento, al tempo stesso rassegnato e inquieto su se stessi, un misto avrebbe detto Aubert, di suave mari magno e di memento qui a pulvis, che tutti gli sguardi si fissarono su quel volto cui la malattia aveva così minuziosamente roso, corroso le guance, quasi una luna calante, che, eccettuata una certa angolazione, quella senza dubbio secondo la quale Swann vedeva se stesso, esse sembravano sfuggire come un fondale inconsistente che solo grazie a un'illusione ottica può assumere l'apparenza dello spessore. Fosse appunto per l'assenza delle guance, che prima davano l'impressione di rimpicciolirlo, o perché l'arteriosclerosi, che anch'essa un'intossicazione, lo arrossava o lo deformava come avrebbero fatto rispettivamente l'alcol o la morfina, certo è che il naso da pulcinella di Swann, per tanto tempo riassorbito in un viso gradevole, sembrava adesso enorme, tumefatto, scarlatto. Il naso d'un vecchio ebreo, più che d'uno strano Valois. Può darsi, d'altronde, che in quei giorni estremi la razza facesse maggiormente risaltare in lui il tipo fisico che la caratterizza, assieme al sentimento d'una solidarietà morale con gli altri ebrei che Swann, in apparenza, aveva dimenticata per tutta la vita, e che la malattia mortale, l'affare Dreyfus, la propaganda antisemita, intrecciandosi a vicenda, avevano ora risvegliata. Vi sono certi israeliti, assai fini peraltro e delicati uomini di mondo, nei quali rimangono in attesa dietro le quinte, pronti a fare la loro comparsa come in una commedia, ad un dato momento della loro vita, un villanzone e un profeta. Per Swann era arrivata l'età del profeta. Certo, con quel suo volto dal quale, sotto l'azione della malattia, interi segmenti erano scomparsi come un blocco di ghiaccio che si sfalda fondendo, egli era molto cambiato. Ma non poteva non colpirmi la constatazione di quanto più profondo fosse il cambiamento che egli aveva subito ai miei occhi. Quell'uomo eccellente, colto, che sicuramente non mi dispiaceva incontrare, non riuscivo tuttavia a capire come avessi potuto un tempo avvolgerlo d'una tale aura di mistero che la sua apparizione ai Champs-Élysées mi faceva battere il cuore, sino a impedirmi d'accostare senza vergogna la sua pellegrina foderata di seta, o di suonare alla porta dell'appartamento in cui viveva una siffatta creatura senza essere colto da un turbamento ed un terrore infiniti. Tutte queste cose erano ormai scomparse, non solo dalla sua dimora, ma dalla sua stessa persona, e l'idea di conversare con lui poteva riuscirmi più o meno attraente, ma non intaccava in alcun modo il mio sistema nervoso. E per giunta, quanto era cambiato da quello stesso pomeriggio, cioè da poche ore prima, quando l'avevo incontrato nello studio del duca di Grammont. C'era stata veramente fra lui e il principe una scenata che l'aveva sconvolto? Supporlo non era affatto necessario. Ogni minimo sforzo si trasforma ben presto per una persona gravemente malata in un surmenage insopportabile. Per poco che lo si esponga, già stanco, al caldo d'un ricevimento, il suo viso si decompone e illividisce come succede in meno di un giorno a una pera troppo matura o al latte sul punto di cagliare. Inoltre, diradandosi, i capelli di Swann s'erano ridotti a chiazze e, come diceva Madame de Grammont, avevano bisogno del pellicciaio. Sembravano canforati e canforati male. Stavo per attraversare il fumoir, deciso a rivolgere la parola a Swann, quando purtroppo una mano s'abbatté sulla mia spalla. «Buongiorno, mio caro, sono a Parigi per 48 ore, sono passato da casa tua dove m'hanno detto che eri qui, e a te, insomma, che mia zia deve l'onore della mia presenza alla sua festa». Era Saint-Loup. Gli dissi quanto la casa mi sembrasse bella. «Sì, fa abbastanza monumento storico, io la trovo spaventosa. Non mettiamoci vicino lo zio Palamed, altrimenti ci cattura. Ora che Madame Mollet se n'è andata, è lei che tiene le chiavi al momento, se ne sta lì tutto smarrito. Pare che sia stato un vero spettacolo, non se n'è staccato d'un metro, l'ha mollata solo dopo averla messa sulla carrozza. Non che gliene voglia per questo, trovo solo bizzarro che il consiglio di famiglia, invariabilmente così severo nei miei confronti, sia composto proprio dai parenti che hanno corso più sfrenatamente la cavallina, a cominciare dal più gaudente di tutti, lo zio Charlus, mio tutore in seconda. Di donne ne ha avute quante Don Giovanni e alla sua età ancora non desiste. Si è persino ventilata a un certo punto la nomina di un consiglio giudiziario. Suppongo che quando quei vecchi donaioli si trovavano tutti insieme per prendere in esame la questione e mi convocavano per farmi la morale e spiegarmi che facevo soffrire mia madre, non potessero guardarsi in faccia senza scoppiare a ridere. Dovresti esaminare la composizione del consiglio. Si direbbe che abbiano fatto apposta a scegliere quelli che hanno alzato più sottane. Lasciando da parte il signor di Charlus, a proposito del quale lo stupore del mio amico non mi sembrava più giustificato, ma per ragioni diverse e destinate peraltro a modificarsi in seguito nella mia mente, Robert aveva comunque torto a trovare anomalo che dei parenti che hanno fatto follie e magari le fanno ancora possano impartire lezioni di saggezza a un giovane. Non fosse che per motivi connessi all'atavismo, alle somiglianze familiari, è inevitabile che lo zio incaricato della ramanzina abbia più o meno gli stessi difetti del nipote da rampognare. E assolve il suo compito, d'altronde, senza alcuna ipocrisia, tratto in inganno dalla facoltà, comune a tutti gli uomini, di credere ogni volta che si tratti di un'altra cosa, facoltà che consente loro di adottare errori artistici, politici, eccetera, senza accorgersi che sono gli stessi scambiati per altrettante verità 10 anni prima, a proposito di un'altra scuola di pittura che condannavano, di un altro affare politico che giudicavano meritevole del loro odio e cui ora, ricredendosi, danno la propria adesione, incapaci di riconoscerli sotto un nuovo travestimento. Del resto, anche se gli sbagli dello zio sono diversi da quelli del nipote, l'ereditarietà può ugualmente costituirne, in una certa misura, la legge causale, giacché non sempre l'effetto assomiglia alla causa, come una copia all'originale, e addirittura, anche quando i suoi sbagli sono peggiori, lo zio può tranquillamente ritenerli più veniali. All'epoca in cui Charlus muoveva i suoi indignati rimproveri a Robert, che allora d'altronde non conosceva le vere inclinazioni di suo zio, e quando anche fosse stato ancora il tempo in cui lo stesso barone le biasimava, questi avrebbe potuto essere sincero nel giudicare il nipote, dal punto di vista dell'uomo di mondo, infinitamente più colpevole di lui. Robert non aveva forse rischiato, quando suo zio era stato incaricato, di fargli intendere ragione, la messa al bando da parte del suo mondo? Non era mancato poco che i soci del jockey lo subissassero di palle nere? Non era oggetto di scherno per le somme folli sperperate a beneficio di una donna di infimo rango, per le sue amicizie con individui, autori, attori, ebrei, di cui non uno apparteneva alla buona società, per le sue opinioni identiche a quelle dei traditori, per il dolore provocato a tutti i suoi? A che titolo poteva essere paragonata una vita a tal punto scandalosa con quella del signor di Charlus, che sino allora aveva saputo non solo mantenere, ma anche rafforzare la sua posizione di gourmand, svolgendo in società un ruolo assolutamente privilegiato di personaggio ricercato e adulato dal fior fiore del bel mondo, e che, sposato con una principessa di Borbone, donna eminente, aveva saputo renderla felice, aveva votato alla sua memoria un culto più fervente, più impeccabile di quanto non si usi nel mondo, risultando insomma altrettanto buon marito che buon figlio. «Ma sei sicuro che il signor di Charlus abbia avuto uno stuolo di amanti?» azzardai, non certo con la diabolica intenzione di rivelare a Robert il segreto che avevo scoperto, ma pur sempre irritato dal sentirlo professare un errore con tanta baldanza e presunzione. Si limitò a scrollare le spalle in risposta a quella che credeva da parte mia una semplice ingenuità. D'altra parte non gliene faccio una colpa, secondo me ha perfettamente ragione. E cominciò a delinearmi una teoria di fronte alla quale a Balbec sarebbe inorridito. Quando, non contento di biasimare i seduttori, la morte gli sembrava il solo castigo proporzionato al loro crimine. Il fatto è che a quei tempi era ancora innamorato e geloso, Adesso giunse al punto di tessermi le lodi delle case d'appuntamento. È solo là che ti puoi cavare ogni sfizio, trovare sempre, come diciamo al reggimento, il tuo tipo. Non aveva più, per posti di quel genere, il disgusto che gli avevano ispirato a Balbec certe mie semplici allusioni. Adesso, dopo averlo ascoltato, gli dissi che Bloch me ne aveva fatto conoscere uno, ma Robert replicò che un posto frequentato da Bloch doveva essere estremamente squallido, un paradiso per poveri diavoli. Però, dopo tutto, dipende. Dov'era? Rimasi nel vago, ricordando che proprio là si pagava un Luigi per quella Rachel che Robert aveva tanto amata. Sentendomi esprimere il desiderio d'essere accompagnato al più presto nelle case che frequentava lui e che in effetti dovevano essere ben superiori a quella indicatami da Bloch, Robert si mostrò sinceramente rammaricato di non poterlo fare questa volta, costretto com'era a ripartire l'indomani stesso. «Sarà per la mia prossima venuta», promise. «Vedrai, ci sono persino delle fanciulle», aggiunse in tono misterioso. «C'è una piccola mademoiselle de Dogeville, credo, ma ti saprò dire esattamente. È figlia di gente di prim'ordine. La madre è più o meno una Lacroix-Lévêque. Siamo in pieno fiorfiore. Sono persino un po' parenti, salvo errore, di mia zia Orian. Del resto basta vederla, la piccina, si capisce che è nata bene». Sentii stendersi per un istante sulla voce di Robert l'ombra del genio dei Germain, che passò come una nuvola, ma ad alta quota e senza fermarsi. «Un'occasione da non perdere, secondo me. I genitori sono sempre malati e non possono occuparsi di lei. Diamine, la piccina deve pure svagarsi, e io conto su di te per procurarle qualche distrazione, povera bimba. Ah, e quando tornerai? Non lo so. Ma se non pretendi a tutti i costi delle duchesse, perché il titolo di duchessa per l'aristocrazia è solo che designi un rango particolarmente brillante, un po' come per i plebei, quello di principessa, cambiando completamente genere, ci sarebbe la cameriera personale di Madame Putbus,